Vediamo se pronto ci siete. Questa è una prova. Pronto, pronto. Mi senti? Prova, prova, prova. Perfetto. Allora possiamo incominciare. Blocco 19, 9 puntata, 14 dicembre. Abbiamo colto l'occasione di trasmettere oggi, perché c'era lo sciopero indetto dagli ospedalieri del San Paolo e del San Carlo. Sembra che va bene, la tecnica ci ha aiutato per adesso. Avremo un pochino di notizie che riguardano questa agitazione del personale del San Carlo, di cui comunque a Milano si è parlato tanto, e vorremmo affrontare una volta più sotto diversi aspetti, insomma, la questione del sistema sanitario in relazione a COVID-19, al COVID, alla pandemia del COVID-19. Trasmettiamo da ottobre, quindi vedremo di fare un piccolo riepilogo delle cose che sono avvenute in questo periodo. E va bene, ma incominciamo, dai. Loco 19. Vedi, c'è già un effetto eco che sei. Da benvenuto al Loco 19. Yeah! Buonasera. Buonasera. Io non ho un riscontro. Sentite, sì, ci sentiamo, ci siete? Buonasera ancora. Siamo in una stanza piena di cavi e computer, come è giusto che sia radiofonicamente parlando, e mi si dice che mi si sente, che è una buona notizia sempre. Benvenuti a questa puntata di Loco 19, puntata odierna dedicata alla situazione sanitaria e in particolare alla giornata di oggi. Omot, posso... Abbiamo anche ospiti stasera, altri ospiti, se ci sono e se ci sentono, visto che siamo parte della, tra virgolette, redazione in locale, altra parte in remoto, se le parti in remoto ci stanno sentendo? Amiche e amici vicini e lontani, dateci un ping. No, allora sapete che io metto una musichetta. Ebbene. La la la. spostato di un minimo la decisione. C'è voluta la pandemia evidentemente per far tramontare questa insensata decisione della Regione Lombardia. In realtà crediamo che sia solo accantonato, perché le loro politiche sono quelle di comunque andare verso sempre più la privatizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. Rispetto a questa cosa qui, anche nelle ultime settimane abbiamo visto in maniera esponenziale crescere la solidarietà delle altre situazioni, una cosa indispensabile. Fino a poco tempo fa eravamo da soli con i lavoratori interni così a volantinare due ospedali, gli ultimi grossi presidi, qui due settimane fa, Flashmob, poi a San Carlo, infine quello al Pio Albergo Tributo di settimana scorsa, hanno dimostrato questa come tendenza va davanti, e la dimostrazione è ancora oggi. Voci raccolte dal presidio questa mattina davanti all'ospedale San Paolo. L'iniziativa di questa mattina è iniziata all'ospedale San Carlo, dove una specie di pulmino fatto di cartone è stato portato nei corridoi dell'ospedale, nelle strade interne dell'ospedale, ha circondato la palazzina della direzione, e poi arrivato all'ospedale San Paolo intorno alle 10:30, dove c'era un presidio degli operatori dell'ospedale, e da lì si è recato poi nel primo pomeriggio davanti agli uffici della Regione Lombardia. Fammi un segnale. Vado. Abbiamo detto che è da ottobre che non ci sentiamo, e quindi abbiamo provato a fare un esperimento, cioè a raccogliere dei frammenti dei notiziari. Diciamo, per non diventare completamente addicted, abbiamo scelto di preferenza i notiziari della Radio 3, in particolare quello delle 13:45 e quello delle 18:45. Abbiamo così composto delle brevi time lapse, come dire, di notizie, e vi diamo adesso il primo. Riepilogo parzialissimo di alcuni eventi ritenuti salienti in relazione alla pandemia Covid-19 e alla sua gestione in Italia nel periodo che intercorre tra il 17 ottobre 2020 e il 17 novembre 2020. Maurizio Stirpe, vicepresidente di Confindustria. Io non voglio la cassa Covid, io vorrei usufruire della cassa integrazione ordinaria e non essere soggetto al divieto di licenziamento, punto. Preoccupano i focolai, specie nella RSA. Dopo quella in provincia di Savona, dove ieri sono state individuate 81 persone affette da virus, l'allarme oggi scatta anche a Sambuca, nell'Agrigentino, dopo i 45 casi scoperti proprio in una casa di riposo. Zona rossa, la tendopoli di San Ferdinando a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, luogo che da anni ospita migranti che lavorano nei campi, 17 positivi. Un focolaio che potrebbe però peggiorare rapidamente. Arriva un nuovo DPCM per chiudere tutto alle 22. Ministro Speranza, priorità a scuola e lavoro. Abbiamo deciso di emanare un provvedimento che, oltre all'oggettivo significato, sia anche simbolico. Noi abbiamo disposto che dalle 23 di ogni sera fino al mattino dopo alle 5 non solo siano chiuse tutte le attività, ma che la gente debba rimanere nelle proprie abitazioni. Ancora una volta le forze armate manifestano senso di responsabilità e spirito di servizio a favore della coesione nazionale. Le forze armate, forti di una lunga storia che si identifica con quella dell'Italia, si confermano strumento che contribuisce instancabilmente alla difesa e alla sicurezza della Repubblica. Ancora poche ore e anche Basilicata, Abruzzo, Umbria, Toscana e Liguria cambieranno il colore del rischio, da giallo ad arancione, da debole a moderato. Sono già arancioni Sicilia e Puglia. Si attende intanto la decisione, che dovrebbe arrivare in giornata, sulla Campania. Possibile il salto in fascia rossa. Parti sociali della manovra al recovery plan. Tra gli obiettivi, la revisione dello statuto dei lavoratori e la creazione di uno statuto delle imprese. Il caso Calabria, il commissario alla sanità Zuccatelli si dimette dopo le critiche ricevute per un suo video in cui negava l'utilità delle mascherine, ed è già pronta la nomina per il successore. Giuseppe Zuccatelli lascia, al suo posto arriva Eugenio Gaudio, ex rettore della Sapienza di Roma, affiancato come consulente con delega speciale anti-Covid dal fondatore di Emergency Gino Strada. Zuccatelli a sua volta era stato scelto in sostituzione di Saverio Cotticelli, colto clamorosamente impreparato sul piano anti-Covid della regione. Nino Spirlì, presidente facente funzione della Calabria, avverte: non siamo l'Afghanistan, per la nomina di Gino Strada dovranno passare sul mio corpo. Stop del TAR del Lazio alle cure a casa dei malati Covid da parte dei medici di famiglia previste da un provvedimento della Regione. Il Tribunale amministrativo ha parzialmente accolto un ricorso del sindacato dei medici italiani. L'assistenza a casa ai pazienti Covid per il TAR dovrebbe spettare solo alle USCA, unità speciali di continuità assistenziale. La Regione ha annunciato ricorso, precisando che nel Lazio ci sono almeno 60.000 persone in isolamento domiciliare. Intanto, sul fronte vaccino, la Commissione europea ha approvato un contratto preliminare con la società farmaceutica CureVac per l'acquisto di 225 milioni di dosi, con un'opzione per altre 180 milioni. Sul tavolo anche colloqui preliminari con l'americana Moderna per 160 milioni di dosi. L'accordo però deve essere ancora concluso e la farmaceutica avverte: se non si chiude c'è il rischio di ritardi nella distribuzione. Intanto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, ha fatto il punto sull'andamento dell'epidemia nel nostro paese. Trascorreremo il Natale senza zone rosse e arancioni? Dipende molto da come ci comportiamo. E mi vaga a cucca, mo vene Natale, non tengo denaro, ma leggo il giornale, e mi vaga a cucca. Ci troviamo ad una stretta. Qualcosa muta. Lo si nota più per quel che non si vede che per quello che si vede. I numeri tendono a scomparire dalle prime pagine dei giornali, lasciando il posto ai soldi dell'Europa e ai vaccini. Il problema cede il passo alla soluzione. Non importa che si sia capito bene che cosa sta realmente succedendo. L'importante è trovare un giusto ritmo di marcia. Ma proviamo a ricominciare. Il 31 gennaio 2020, non si sa se per caso, per fortuna o per stupefacente lungimiranza, il governo italiano ha dato il via ad una guerra che si ripromette d'essere lunga. Da subito, l'abbiamo detto, suonano sordi quei numeri diffusi quotidianamente. Il totale dei contagi è una grandezza che dipende dalla quantità di misurazioni e che poco ci dice sull'incidenza e la gravità degli effetti del virus SARS-CoV-2. In un primo momento sembrava una questione di lana caprina. Le misure, condotte in un contesto di focolai molto gravi, restituiscono soprattutto lo stato di patologie estreme. Contagiato e fortemente sintomatico sono e divengono sinonimi. A distanza di tempo, però, la situazione muta. L'incidenza di positivi asintomatici cresce, ma nella potenza dei numeri non ce ne si fa troppo caso. quella che potrebbe essere una buona notizia diviene strumento di paura. Ossia, benché vi sia una percentuale alta di persone che stanno bene pur essendo entrate in contatto con il virus, il numero complessivo di contagi che li include cresce molto ed è quello che tiene banco. Il fatto che a parità di malati sintomatici vi sia un più alto numero di asintomatici dovrebbe significare che il virus è, se non meno pericoloso, quantomeno meno aggressivo, il che, se non è una buona notizia, almeno una notizia è, o no? Non voler distinguere tra per e con coronavirus nella conta dei decessi, come dichiarato dalla Protezione Civile nella rituale conferenza stampa il 21 marzo 2020 e mai smentito, rende ulteriormente difficile una valutazione obiettiva sulla letalità dello stesso. Se ogni deceduto che sia positivo al SARS-CoV-2 viene conteggiato in questo elenco, indipendentemente dalla causa del decesso, otteniamo al più una ulteriore informazione sulla diffusione del virus, ma non sui suoi effetti. Come vi sono dei positivi asintomatici, vi possono infatti essere dei decessi di persone infette che hanno cause del tutto indipendenti dal virus. Inoltre, il numero crudo penetra a fondo, ma nasconde l'età, la presenza di patologie pregresse, la collocazione geografica, il contesto in cui queste morti sono avvenute. Deve esserci più vergogna che strategia a confessare che almeno il 50% dei decessi è avvenuto nelle RSA. Meglio lasciar perdere. L'indagine epidemiologica sulla presenza di anticorpi, tardivamente proposta dal commissariato di Arcuri, si è arenata anzitempo per mancanza di candidati. I test sierologici per la misura degli anticorpi sono disponibili dai primi di aprile. Un campionamento mirato avrebbe permesso di stimare la reale diffusione sul territorio delle persone che erano entrate in contatto con il virus. Avrebbe svelato se la catena di contagi partiva a febbraio, come si è sempre sostenuto, o se, come oggi si ipotizza, va fatta risalire almeno al novembre dell'anno precedente. Ci avrebbe permesso, insomma, di fare una stima realistica sul numero di persone che erano entrate in contatto col virus, indipendentemente dalla presenza o meno di sintomi. Invece niente, mancavano i candidati. Oggi si parla di una nuova campagna di indagine anticorpale per validare gli effetti del vaccino. Perso di vista il problema, ci si concentra sulla sua soluzione. Per questa i candidati si troveranno certamente. Non parliamo poi delle cure, del trattamento dei malati a casa, indicazioni fondamentali per affrontare una patologia di questo tipo e per cui vengono proposte delle linee guida a metà novembre, 10 mesi dall'inizio della partita. Impossibile fare diversamente, più facile parlare di disattenzione. Anche il fatto che la medicina del territorio era stata trascurata negli anni lo si è già detto. Il gergo bellico utilizzato nella retorica sul Covid-19 non è casuale, non è un modo per enfatizzare una situazione grave. Qui non siamo posti di fronte ad una malattia come le altre, ma solo più insidiosa e pericolosa. Qui si è di fronte a un nemico che va sterminato, debellato, eradicato a qualsiasi costo. La fisiologia è scomparsa. E mentre milioni di persone sono chiuse in casa dalle 10 di sera alle 5 del mattino, ormai da più di 40 giorni, mentre si allungano le code ai punti di distribuzione del pane quotidiano, il chiodo è come uscire per Natale, per acquistare e sostenere i consumi, ma non farlo troppo per non rompere l'isolamento, ma farlo un po' di più per sostenere i consumi, ma non farlo troppo, e così via. Di un sistema di produzione e consumo che, lo si sapeva già da prima, era destinato prima o poi a schiantarsi al suolo, neanche ora, dopo tutto questo, sembra possibile discutere. Siamo come in guerra, contro un nemico di cui non ci dicono nulla e sarà una guerra lunga. Si parlava di armi batteriologiche capaci di distruggere dei sistemi sociali senza danneggiare le cose. Eccola qua, ma l'arma non è il virus, o non solo, bensì l'esercito schierato contro di lui. Non si sa se per caso, per sfortuna o per stupefacente lungimiranza siamo come in guerra e così, come in tutte le guerre, il principale problema sono gli eserciti, prima ancora del nemico. Hacker di tutto il mondo starebbero provando a rubare le cure segrete. Ci sono cure segrete? No, solo la ricetta è segreta. Alla fine si tratta di rubare algoritmi. Fioccano notizie di questo tipo. Gli attacchi starebbero avvenendo da Nord Corea, Iran, Vietnam, Cina e Russia, ai danni di European Medicine Agency e altre, tra cui aziende IT connesse alle Big Pharma. Sarebbe proprio grazie alla protezione di questa fantomatica proprietà intellettuale che oggi per il coronavirus, secondo alcuni, si contano al mondo più di 160 vaccini sperimentali. Tuttavia due sono le potenziali criticità connesse a questo strano costrutto sociale. Il primo è legato alla possibilità che le aziende farmaceutiche impongano dei prezzi eccessivamente elevati e il secondo riguarda la frammentazione e la sovrapposizione di questa proprietà intellettuale che potrebbe generare dei costi aggiuntivi per lo sviluppo e la produzione stessa del vaccino. La sospensione della proprietà intellettuale consentirebbe a tutti i paesi di non concedere o depositare brevetti e altre misure di proprietà intellettuale su farmaci, test diagnostici e vaccini utili per rispondere al Covid-19 per tutta la durata della pandemia, fino al raggiungimento dell'immunità di gregge a livello globale. Un'iniziativa simile alle posizioni assunte dai governi del sud del mondo oltre 20 anni fa, che hanno determinato l'introduzione e l'utilizzo di farmaci generici per l'HIV e l'AIDS a prezzi accessibili, salvando così milioni di vite. Guardando questa esperienza con lo sguardo post-traumatico di oggi, possiamo evitare quello che è successo ai tempi quando i monopoli sui trattamenti salvavita hanno consentito ai paesi di alto reddito di accedere alle cure per l'HIV, mentre milioni di persone nei paesi più poveri sono state lasciate morire. Ad agosto era partito il programma COVAX per l'accesso globale al vaccino, condotto da Gavi Alliance, dalla CEPI, Coalizione per l'Innovazione in Materia di Preparazione alle Epidemie, e dall'OMS. Lo scopo è, appunto, cofinanziare la spesa di acquisto e distribuzione dei vaccini in tutto il mondo, compresi quelli a basso e medio reddito. La cifra raggiunta ammonta a 1,7 miliardi di dollari e da pochi giorni ha aderito anche la Cina. Salgono così a 168 i paesi che partecipano al programma, che corrispondono ai 2/3 della popolazione globale. Ne restano fuori gli USA e la Russia. L'Italia si è impegnata a versare 20 milioni di euro. Nel frattempo si continua a procedere con la sperimentazione dei vaccini. Sottolinea National Geographic che ci vogliono in media 10-15 anni perché un vaccino efficace sia inserito sul mercato. Non va dimenticato che i vaccini devono passare da 3 prove cliniche prima dell'approvazione definitiva. Il più veloce fu quello contro la parotite, considerato il più veloce mai approvato. Ci vollero 4 anni, era il 1967. Regno Unito e Canada invece si stanno indirizzando verso la depenalizzazione dello sfruttamento dei brevetti legati al Covid, mentre i governi di Cile, Israele, Ecuador e Germania si stanno orientando verso delle licenze obbligatorie per qualsiasi brevetto legato alla gestione del Covid. Se la depenalizzazione significa limitatamente una circostanza specifica, in questo caso l'emergenza Covid, eliminare il reato di contraffazione su qualsiasi prodotto legato alla gestione dell'emergenza, la proprietà intellettuale offre la possibilità di ricorrere a questa già citata licenza obbligatoria e all'espropriazione. La licenza obbligatoria è difficilmente praticabile in breve perché prevede un complicato iter processuale, mentre le espropriazioni permettono agli stati di impossessarsi rapidamente di qualsiasi brevetto, nell'interesse della difesa militare del paese o per ragioni di pubblica utilità, a fronte di un'indennità al titolare. Ricordiamo che la nuova tecnologia alla base del vaccino Moderna è stata sviluppata in parte dal National Institute of Health, utilizzando fondi federali statunitensi, per un totale di circa 2,5 miliardi di dollari in denaro dei contribuenti per il sostegno alla ricerca e in parte anche come preordini per i vaccini. Per stessa missione della società, il contributo di 1 miliardo di dollari ricevuto per la ricerca ha coperto il 100% di tali costi. Moderna si è poi impegnata a non far valere i suoi brevetti relativi al Covid contro coloro che producono vaccini destinati a combattere la pandemia. Ma, come ha sottolineato anche Medici Senza Frontiere, tale offerta è meno generosa di quanto sembri, poiché altri tipi di proprietà intellettuale, come know-how o segreti commerciali, sono invece necessari per sviluppare e produrre vaccini. Pfizer, da parte sua, ha ricevuto invece una sovvenzione di 455 milioni di dollari dal governo tedesco per sviluppare il suo vaccino e poi, secondo i calcoli, quasi 6 miliardi di dollari in impegni di acquisto dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea. AstraZeneca ha beneficiato di altri finanziamenti pubblici durante lo sviluppo del vaccino per un totale di oltre 2 miliardi di dollari dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea, sia per la ricerca che per gli impegni di acquisto. Ha anche firmato un accordo del valore di 750 milioni di dollari per fornire alla Coalition for Epidemic Preparedness, Innovation e Gavi, la Vaccine Alliance, un totale di 300 milioni di dosi. Ma considerando che l'82% dei vaccini Pfizer e il 78% di Moderna, che potranno essere prodotti in un anno, è già stato venduto ai paesi ricchi, purtroppo possiamo immaginare le probabili carenze e ritardi per il resto del mondo. Proprietà intellettuali. Sia mai che la conoscenza diventi virale. Il bisogno urgente di vaccini, medicine, strumenti diagnostici e reagenti, materiali medici e protocolli terapeutici ha reso chiara la necessità di cambiare le leggi sul diritto di proprietà intellettuale per evitare un blocco della ricerca, della fabbricazione e della consegna di cure e vaccini. Le piattaforme di dati aperti esistono già nella ricerca accademica, come segnala la rivista Scientific Journal Nature. Condividere dati migliora la collaborazione, la fiducia nel risultato e incentiva la buona fede tra i ricercatori. Inoltre evita duplicati e aumenta la banca dati a disposizione, cosa utile per rimuovere dati opinionati, o meglio bias. La diffusione del Covid-19 ha creato un impeto verso il mettere a disposizione i dati a scopo di ricerca, cominciando ad esempio col rendere pubblica la sequenza del genoma, non era mai successo, cosa che ha aiutato tutti gli sviluppi dei vaccini e delle cure. Avendo accesso ai dati, le entità di vigilanza possono facilmente comparare i risultati e prendere decisioni robuste e riconosciute come tali. Questo svilupperebbe fiducia nel pubblico, in un mondo dove l'esitazione nei confronti dei vaccini è in crescita e nel quale molti cittadini ne hanno già i mezzi per leggere e confrontare le decisioni. Questo sarebbe un salto evolutivo, non rivoluzionario, perché già dalla crisi di Ebola 2014-2016 gli enti di vigilanza, o altrimenti detti enti regolatori, stanno facendo enormi sforzi per discutere, coordinarsi e cominciare ad armonizzare i loro processi. Questa gente che si cominciarono a chiamare i ciò. In piazza cominciano ad arrivare gli operai, i lavoranti, i batalala, come dicono loro. Tutta questa gente arrivata in piazza a un certo punto si accorge di essere maggioranza. La marea degli operai comincia a sciamare per tutta la città e cominciano a dare l'assalto alle case dei traditori. E chi sono i traditori? Sono quei popolani grassi che sono diventati troppo grassi, dei grossi proprietari di industrie, di aziende, dei giudici, dei giuristi, che sono stufi di questo governo largo. La gente lo sa, li conoscono per nome, Messer Lapo da Castiglionchio, giudice. Andiamo a bruciargli la casa. Il furore dilaga in città. Andiamo a bruciargli la casa. Degli strozzi, dei pazzi, i cittadini grossi. Andiamo a bruciargli la casa. Tutte famiglie, sì, di popolo in teoria, ma in realtà traditori. Il furore dilaga in città. Dove si va? Alle stinche, alla prigione. Si rompe la prigione e si liberano i carcerati. Andiamo a bruciargli la casa. Che vuol dire chiaramente, secondo noi il governo è corrotto e traditore, la giustizia è traditrice. Andiamo a bruciargli la casa. Si dà l'assalto ai conventi. Dai francescani a Santa Croce, dai domenicani a Santa Maria Novella, perché se succede il tumulto, i conventi magari verranno risparmiati. Stavolta non vengono risparmiati. Il furore dilaga in cintura. Sbarrano le porte. Di notte si fa la guardia dappertutto. I cittadini grossi traditori. Si va avanti così per giorni. La città è paralizzata. Andiamo a bruciarvi la casa. Il furore dilaga in città. Allora, dicevo prima, due notizie su questo sciopero aziendale che è già iniziato stamattina presto a San Carlo. Verso le 8.30 c'è stata una manifestazione interna a San Carlo, dove dei compagni hanno portato in giro un furgone di cartapesta con su le finestre, le facce dei nostri dirigenti e quelli regionali. Hanno fatto il giro delle palazzine dei dirigenti, dei reparti, adesso stanno arrivando qui. Invece questo sciopero che è stato indetto a San Paolo già è partito, diciamo, un po' male. Nel senso che le norme prevedono che i contingenti minimi di sciopero devono arrivare entro 5 giorni dalla data di effettuazione dello sciopero. Invece qui a San Paolo non sono arrivati. Sono arrivati solo quelli del San Carlo alle 14.30, invece per l'ospedale San Paolo i contingenti non ci sono. Un'altra novità dei contingenti è che per assurdo ci sono più persone che lavorano durante le giornate di sciopero che durante le giornate normali. Perché in effetti i contingenti stabiliscono un numero per ogni turno, che però nelle giornate normali, siccome la mancanza di personale è molto presente, si fa fatica a garantire i contingenti di sciopero nelle giornate normali. Quindi va da sé che scioperare tutti i giorni vuol dire garantire anche la presenza sempre costante di tutti gli operatori. Ecco, per quanto riguarda le adesioni all'interno, sappiamo benissimo che dai reparti nessuno può scioperare, perché appunto l'organico è quello che è, quindi c'è qualche adesione qualcuno dell'ambulatorio e del laboratorio analisi e della camera operatoria. E quindi questi sono i servizi che possono scioperare. Tutti gli altri sono considerati urgenti e essenziali, per cui nessuno si può staccare. Quindi questo è un po' l'andamento di come è andato lo sciopero stamattina. Le motivazioni di questo sciopero lo sapete tutti, è quello che durante tutta questa fase di pandemia la nostra dirigenza ha scritto con alcune organizzazioni sindacali di comodo un contratto integrativo aziendale peggiorativo di quello nazionale. In pratica, entrando nel dettaglio, la nostra dirigenza con il dottor Stocco da gennaio fino adesso ha fatto queste cose che adesso vi elenco. Quindi, a fine gennaio c'è stata la sottoscrizione dell'accordo integrativo PES. A fine marzo-aprile c'è stato un nuovo regolamento di RLS, che sarebbe quello che stabilisce il numero dei lavoratori della sicurezza, che da 15 sono stati portati in totale a 6 delegati su 3 aziende. Infatti noi come siamo denominati come azienda San Paolo, San Carlo e territorio, quindi un'unica azienda con 6 delegati che non servono a coprire tutte le necessità e le emergenze che possono venire fuori da questi periodi qua. Per cui, entrando nel dettaglio spiccio delle rivendicazioni, abbiamo avuto un peggioramento delle condizioni avevamo un accordo integrativo migliorativo al San Paolo sulla vestizione, che sarebbe il tempo impiegato per indossare la divisa, andare negli spogliatoi, uscire, arrivare poi dopo agli ascensori nei reparti. Da noi avevamo 15 minuti, invece sono stati portati a 10, mentre all'ospedale Fiera questo è garantito per 30 minuti per la prescrizione. Le indennità sono rimaste ferme a quelle di 20 anni fa, nel senso che ci sono pochi spiccioli di indennità notturni e quelle delle malattie affettive se vengono dati proprio col contagocce, nel senso che pretendono più turni di mattino, pomeriggio e notte per aver diritto a questa indennità. Poi c'è stata anche l'eliminazione del pasto pranzo per i turnisti. Qui da noi i turnisti non possono mangiare. Se fanno i turni di 7-8 ore, la mensa non è garantita. Come nemmeno è garantita i 10 minuti di pausa previste per quei lavoratori che fanno almeno 6 ore di attività continuativa. Quindi questo è l'assurdo in cui viviamo, le condizioni che sono proprio pessime, ma credo che siano condizioni che siano valide un po' per tutte le strutture ospedaliere con cui siamo in contatto, ma anche in tutta Italia sappiamo di situazioni analoghe a quelle che stanno succedendo al San Paolo. Come anche sulla questione della sicurezza e della prevenzione sui posti di lavoro. Abbiamo nell'ultima ondata un numero eccessivo di contagiati tra il personale. Si assomma qui fra il San Carlo e il San Paolo, si assomma un numero di quasi 400 operatori sanitari contagiati. E questo non si può dire che i lavoratori lavorano male perché vengono contagiati. No, perché la gestione di questa pandemia non è fatta in modo, diciamo, intelligente e razionale. Ci vengono istituiti dei percorsi sporchi puliti che però sono sulla stessa area ma sono divisi solo da una striscia verde o una striscia rossa per delimitare quali sono i percorsi puliti e sporchi. Quindi sappiamo che questo modo di fare sta provocando i contagi fra il personale che non riesce più, diciamo, a sopperire anche alla continua richiesta di salti di riposo, di straordinari, di attività aggiuntive e che poi non vengono neanche remunerate come nel caso dell'emodinamica, dove addirittura la nostra dirigente è andata al recupero di oltre 12.000 euro sui vari operatori perché secondo loro non avevano diritto all'indennità di reperibilità, roba che avevano già comunque svolto ma che poi hanno deciso di non pagare. E quindi al mese di agosto più di 12.000 euro vengono trattenuti dalla busta paga di questi operatori. Quindi quello più importante secondo noi è che si sta arrivando a una delegittimazione della rappresentanza sindacale unitaria, tipo la RSU, nel senso che la RSU non si è mai potuta riunire in queste due fasi di emergenza, non ha potuto interloquire né con i lavoratori né con la dirigenza perché non potevano creare diciamo assembramenti e mantenere le distanze di sicurezza, per cui si è arrivata a una sottoscrizione di accordi che la RSU non ha firmato. Hanno firmato poche sigle sindacali, in quali poi rappresentanti sindacali sono stati premiati con incarichi di posizione e con incarichi di coordinamento. Ecco, siamo ancora davanti al San Paolo, altri due brevi interventi di questa mattina. Voglio entrare subito nel merito della nostra presenza con il SNAICOBOS per il sindacato di classe sanità e portare la testimonianza dall'Istituto Nazionale dei Tumori. La situazione che ha descritto prima Pino, e giustamente ha detto, è una situazione generalizzata della sanità milanese e lombarda in genere, è davanti agli occhi di tutti, solo che è stata zittita, è stata rinchiusa in un circolo vizioso dove hanno usato parole come eroi e ci hanno fatto lavorare come carne da macello. Questa è la realtà. E nella prima fase ci hanno fatto contagiare tutti quanti e non ci hanno portato allo stremo delle forze. Per cui oggi ci troviamo, come diceva Pino, con i contagi alle stelle. E tra l'altro all'Istituto Nazionale dei Tumori abbiamo avuto i primi due morti, lavoratori morti per Covid. E siccome non hanno fatto i tamponi nella prima ondata e ci hanno trasformato in untori nella seconda ondata, nemmeno sono stati ricordati che questo lavoro morte è dovuto alle condizioni in cui ci hanno costretto e ci costringono a lavorare, cioè senza nessun dispositivo di protezione, senza nessuna tutela. E tra l'altro questi due lavoratori fanno parte dell'appalto, delle pulizie, che sono invisibili tra gli invisibili. Si parla, per carità, siamo la primissima linea, infermieri, medici, OS, ma se non ci fossero quelli dell'appalto della pulizia, se non ci fossero quelli dell'appalto della ristorazione, la sanità non andrebbe da nessuna parte. Ebbene, di questi non si ricorda nemmeno la loro esistenza, eppure lavorano in condizioni bestiali. Per dirne una, e questo pensiamo non sia soltanto la situazione all'interno dell'Istituto Nazionale dei Tumori, è quello che questi lavoratori, la ditta e la direzione non è intervenuta, gli ha detto che non gli fanno i tamponi e che se li devono fare a pagamento perché loro non sono a rischio, mentre non hanno i dispositivi per fare le sanificazioni e addirittura si portano le divise a casa, quindi diventano veicolo per contagio all'interno delle proprie famiglie e dei loro rapporti personali. Rappresentiamo pure tutti quei lavoratori che sono nei reparti e che non hanno potuto aderire allo sciopero e che vivono da sempre, non solo per l'ultimo periodo di emergenza, delle condizioni di lavoro pessime, perché non hanno mai sostituito i pensionati, né tutta la gente che è andata via. I lavoratori dei reparti sono sempre di meno e chi ci fa le spese sono appunto i lavoratori stessi e i pazienti, perché siamo strettamente collegati, perché dalla nostra vita lavorativa dipende la qualità dell'assistenza che eroghiamo. E questo non lo vuole capire nessuno, perché l'ospedale non è un'azienda, noi non produciamo cose, noi eroghiamo assistenza, noi curiamo, e questo non lo vogliono capire. E la città di Monza dovrebbe stare insieme a noi, perché siamo strettamente collegati. Dopo che hanno detto di tutto e di più sui lavoratori della sanità nel primo periodo dell'emergenza, però nessuno ha detto come venivamo trattati, i soldi dei riposi, i turni lunghi, i doppi turni, le 12 ore per far fronte a tutto, perché la carenza di organico c'è sempre stata ed è sempre maggiore. Non hanno nessuna intenzione di incentivare e far funzionare la sanità pubblica, vogliono chiudere con la sanità pubblica, questo è chiaro. Distanziamenti, finanziamenti, qualcuno l'ha già detto, che dovevano arrivare, non sono mai arrivati. Le assunzioni sono state fatte solo con contratti precari. Noi vogliamo assunzioni stabili, non più il precariato. Sono arrivati pochi lavoratori giusto per l'emergenza e poi subito a casa. E infatti alla seconda ondata ci siamo trovati peggio di prima. Adesso un infermiere prende 2,74 euro l'ora per 8 ore di notte. Questo importo deve essere aumentato, ma non è stato fatto neanche questo. I 290.000 euro non si sa dove sono andati a finire, però in compenso hanno fatto tanti capi e capezzi, hanno premiato tanta gente. E chi hanno premiato? Hanno premiato quei sindacalisti che hanno firmato questo contratto aziendale e che adesso ricoprono tutti posti o da capo dipartimento o da coordinatore. È così che il dottor Stocco ha creato una sua gerarchia dove può controllare tutto a livello capillare. E poi vorrei dire qualcosa pure rispetto al territorio. Siete poco del lavoro del territorio. Beh, questa amministrazione non si è preoccupata minimamente di capire come funziona il territorio. Quali possono essere le potenzialità? Se l'ha lasciato andare a se stesso. Non ha assunto personale, intanto la gente continua ad andare in pensione. Ci sono dei servizi che sono stati chiusi, che non possono essere erogati, perché manca il personale. Perché per loro uno spazio all'attamento è una stupidata. Invece noi donne sappiamo quanto può essere importante in questi momenti. Ebbene, ci sono dei consultori dove non esistono più questi servizi. Perché non hanno sostituito il personale? Perché non assumono? E l'unica cosa che sono stati capaci di fare è di imporci il loro orario rigido. Ma non si capisce perché. Perché sul territorio non serve. È l'unica cosa che sono riusciti a fare. Quelli che sentivamo erano gli interventi registrati questa mattina davanti al presidio davanti al San Paolo. E c'è un altro argomento di cui si parla molto poco, viene citato nei dati, ma in realtà è un argomento che probabilmente merita un approfondimento anche più grosso di quello che faremo adesso. Riguarda le RSA. Diciamo che è noto che in Italia e negli Stati Uniti, in Spagna, in moltissimi paesi, in Svezia, la gran parte dei decessi per Covid, per SARS-CoV-2, per il virus SARS-CoV-2, è avvenuto, ha riguardato pazienti che erano degenti delle RSA. La Lombardia, che vi ricordo ha il più alto tasso di mortalità del mondo, la sola Lombardia, ha almeno il 50% dei decessi sono avvenuti in ambito, diciamo, che riguarda le RSA. Non dobbiamo pensare che questa cosa abbia origine al febbraio del 2020 oppure a novembre, cioè nasca con la presenza di questo virus. Questo fatto ha le sue radici, le sue motivazioni molto più indietro nel tempo. Sinteticamente possiamo dire che in qualche modo è legato alla mercificazione della salute e alla quello che, su cui la Lombardia è stata realmente eccellente dal punto di vista del sistema sanitario, alla privatizzazione e scorporazione dei servizi, scorporazione delle funzioni e perdita di quel senso della medicina integrata che unica può in qualche modo realmente affrontare quelle che sono le problematiche fisiologiche della vita delle persone giovani e vecchie. Abbiamo voluto provare a indagare questo aspetto parlando con uno infermiere che ha lavorato per molti anni nelle RSA. Sentiamo. L'argomento è questo, sì, è la casa di riposo. Casa, diciamo, di riposo, no? Dove io sono un infermiere, non ci lavoro più da ormai più di 5 anni, ma ci ho lavorato complessivamente 10 anni, insomma, 10-12 anni, a Milano. Innanzitutto c'è stata un'esplosione, non ho la minima idea della quantità solamente di investimento immobiliare fatto all'interno di questo settore, con nascita di un sacco di strutture edilizie nuove con capitali i più diversi, molti sono francesi piuttosto che tedeschi, credo principalmente francesi, che si aggiungono a tutte le vecchie strutture preesistenti, enormi, pubbliche, enormi, più noto il Albergo Trivulzio,

Va bene. Allora abbiamo finito questa carrellata di materiali che giravano attorno alla sanità. Ci hanno detto che il presidio, poi c'è stato un po' il pomeriggio, c'è stato questo presidio della mattina, si è spostato in regione, che sono stati ricevuti del personale degli ospedali, sono stati ricevuti in regione e avremo poi modo di dare aggiornamenti e lì potete sapere da molte altre fonti. Adesso vorremmo interrompere questa sequenza ospedaliera presentando una iniziativa. Una curiosa iniziativa. L'amico Felice Accame ha pubblicato recentemente un corposo volume che si chiama Un clandestino a bordo di una nave fantasma, A Nulla Liberté 1989-2019, che contiene nelle sue, sono quasi 600 pagine, tutti i suoi interventi pubblicati dalla rivista A, per l'appunto, in questo lasso di tempo. A chiosa di questo libro, diciamo, la cui presentazione risulta essere un pochino complicata data la dimensione, la mole e anche l'articolazione, perché sono tanti articoli, sono tanti pezzi diversi su temi e argomenti differenti, abbiamo pensato di fargli fare delle pillole, dei piccoli contributi, dei messaggi, diciamo, come dei messaggi in una bottiglia che questo clandestino a bordo della nave fantasma lancia nel internet, non so dire, rilancia, in modo che possano circolare. Allora, adesso diamo il primo ascolto in assoluto di queste pillole, queste glosse, diciamo, al testo di Accame. Così come Che Guevara nella guerra di guerriglia raccomanda al buon guerrigliero di portarsi sempre appresso scorte di tabacco, fiammiferi, un pezzo di sapone, spazzolino da denti, dentifricio e carta igienica, un buon clandestino, anche quello che vuole viaggiare sulla nave fantasma dell'anarchismo, è bene che si provveda di scorte. Scorte di argomentazioni solide, nel caso venga scoperto dai diligenti mastini dell'ordine e nel caso si senta lì per cedere alle lusinghe della solitudine. Ecco perché allora chiameremo questi interventi scorte. Glosse al testo Un clandestino a bordo di una nave fantasma di Felice Accame, Edizioni Colibrì, Milano, novembre 2020. Una poesia di Carlo Oliva che riporto nel clandestino si intitola Traducendo matematici barocchi nel mentre ascolto canti anarchici su disco. E inizia con questi versi. La matematica è fondazione dell'intelletto. Il Caramuel è chiarissimo a questo proposito. Nostra patria è il mondo intero, la nostra legge e la libertà. Molto chiaro a questo proposito è il canto rivoluzionario. Ora, chi li leggesse questi versi potrebbe chiedersi cosa hanno a che fare i fondamenti della matematica con il progetto di una società anarchica. E è uno dei tanti casi in cui ci si può render conto di quante cose occorre sapere per mettersi in sintonia, non dico capire a fondo, mettersi in sintonia con il pensiero altrui, ma è anche l'occasione per verificare la coerenza politica di questo pensiero. Juan Caramuel I. Lobkowicz è nato a Madrid nel 1606 ed è morto a Vigevano nelle vesti di vescovo nel 1682. Studioso enciclopedico ma originale, ci ha lasciato una montagna di scritti e stupende rappresentazioni del sapere, inseguendo il sogno di una mnemotecnica che ne garantisse il governo. Nel 1978 Carlo Oliva tradusse la sua Meditatio Premialis a Matesis Biceps Vetus et Nova. L'aveva tradotto in italiano con l'aritmetica binaria e le altre matematiche. Perché? Lo tradusse perché? Perché fu particolarmente colpito dalla sua posizione integralmente costruttivista nei confronti dei numeri. In linea di massima, da Platone a Galilei, il numero è sempre stato inteso come qualcosa che trascende l'essere umano. O dato da Dio, insomma, o fondamento costitutivo della natura. La natura è scritta in numeri, dice Galilei, e con ciò imprime una sterzata cospicua al pensiero scientifico che seguirà. Ma se la natura fosse scritta in numeri e si trattasse di trovare la chiave per decrittarla, sarebbe comunque qualcosa che ci trascende, di già fatto, di indipendente da noi, di organizzato di per sé, di cui non avremmo responsabilità alcuna. Se invece, come vorrebbe Caramuel e il buon senso, i numeri fossero una nostra costruzione, va da sé che anche l'atteggiamento verso la natura potrebbe cambiare, magari considerando la natura stessa qualcosa di cui sentirsi responsabili. L'atteggiamento costruttivista si contrappone alla visione realista che vorrebbe da una parte il gran libro della natura pronto da essere letto e dall'altra la scienza che pian piano in una sorta di evoluzione verso le verità ultime impara a leggerlo. Ministri del culto, li si chiami preti o scienziati, sarebbero i depositari di un sapere che a tutti gli altri toccherebbe subire. E qui emerge il nodo politico della questione. Ecco perché Carlo, nella sua poesia, connette la posizione di Caramuel sulla natura della matematica all'agognata libertà cantata dagli anarchici. Senza essersi liberati di una cultura della passività, questa libertà non potrà mai, mai essere conquistata. Du-du-dum. Ovviamente Caramuel resta un vescovo cattolico, più volte in odor di eresia, rischiando parecchio con il suo costruttivismo, d'accordo, ma vescovo rimane. Tanto è vero che nella Matesis Biceps ci tiene a sottolineare come realtà inoppugnabile la presunta diversità dell'uomo dagli altri animali. L'uomo sa cantare, dice, il cane no. Anni fa, con Papere, cane d'ordine, un po' fascistello, è un colli. Anna ed io avevamo l'abitudine di fare lunghe passeggiate in Corso Sempione. Ricordo il giorno in cui incontrammo un tale che, per spirito cinofilo, si fermò profondendosi in convenevoli e carezze, no? Capita. Prima del congedo, tuttavia, si rese conto dell'interesse di Papere nei suoi confronti. Perché? Aveva un sacchetto in mano da cui presumibilmente uscivano ghiotti e fluvi. Lui capì e ci chiese se poteva allungarle un biscotto. E noi ovviamente acconsentimmo. Le offrì allora il biscotto, lei lo prese, se lo posò davanti a sé e riprese immediatamente la posizione di richiesta pressante che aveva assunto in precedenza. Sulle prime costui ci rimase un po' male, ma presto capì, capì, come capimmo noi peraltro. Ne tirò fuori un altro, ne tirò fuori un altro di biscotto e glielo diede. Uno troppo poco, meglio due. Altro che caro Juan Caramuel Ilobkovic, altro che se i cani non sanno contare. E abbiamo un intervento dal presidio di oggi, ma non sappiamo se è in onda in questo momento, ma se è in onda adesso ci dirà qualcosa su cosa è avvenuto oggi. Ci siamo, siamo in studio, sono qua infiltrato nello studio di Radio Lost, che saluto affettuosamente. E, sì, dal presidio di oggi davanti alla Regione Fontana, alla Regione Lombardia, al Palazzo della Regione è emersa una situazione estremamente drammatica. E essenzialmente, mentre i media e la televisione mainstream ripete di uscire a godersi il respiro prenatalizio e comprare i regali, c'è questa situazione che va avanti dal 2015, un progressivo deterioramento in cui appunto i fondi destinati alla sanità sono dati al 50% alla sanità privata, e una cosa che neanche negli Stati Uniti d'America è comprensibile, pur essendo dichiaratamente capitalista. E questo ha portato appunto un'ingestione degli ospedali, in particolare nel San Carlo e nel San Paolo, che è stata aggravata ulteriormente per un'incapacità e una mancanza di responsabilità propria degli amministratori, fino a diventare ora insostenibile. Di fatto, appunto, mentre anche i media glorificavano il personale medico parlandone come angeli e come eroi in stato di guerra, non c'è appunto stata nessuna assunzione, e questo ha fatto sì che poi la gente, i lavoratori si distaccassero, vedendo le situazioni drammatiche, e il personale che ora si trova ancora lì e cerca di resistere, si trova a scioperare in condizioni davvero disastrose. Inoltre, come se non bastasse, rischia una sanzione se appunto denuncia una situazione critica dal punto di vista ospedaliero, è tenuto sotto ricatto ed è punito penalmente, e ci sono 60 appunto persone che sono ora in una posizione estremamente precaria perché hanno denunciato la situazione interna degli ospedali. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera ha mandato una mail a tutto il personale intimando il silenzio stampa. E, insomma, la situazione è estremamente drammatica, e a questo ovviamente per delle figure ben specifiche come sicuramente Fontana e Gallera, e anche Pivelli, che insomma hanno, ma anche la legge Maroni che insomma ha distrutto quello che poteva essere un sistema di sanità pubblica aperto a tutti. Grazie, grazie, grazie. Prego. Bene, siamo arrivati alla fine e chiudiamo con l'ultimo sommario disponibile. Anche questi sommari, dicevo, timelapse delle notizie, li troverete insieme a tutto il materiale sul sito di Lost, che ha come indirizzo lost.abbiamoundominio.org. Allora, adesso vi mando il sommario dell'ultima settimana, non questa, quella precedente, e poi ci salutiamo e niente, e poi vedremo come, quando ci risentiremo. Riepilogo parzialissimo di alcuni eventi ritenuti salienti in relazione alla pandemia Covid-19 e alla sua gestione in Italia nel periodo che intercorre tra il 29/11/2020 e il 05/12/2020. Francia senza pace, oltre 130.000 persone in piazza, 50.000 solo a Parigi, manifestazioni pacifiche degenerate in scontri con i reparti antisommossa contro la nuova legge sulla sicurezza globale che vieta di filmare poliziotti e gendarmi. È una legge pensata da Macron per mettere fine a quello che è anzitutto il separatismo, cioè Macron pensa di dover tirare dentro la società francese quelle parti che vivono nelle banlieue e che non rispettano a suo avviso i valori della laicità e della Repubblica e di doverli tirare dentro anche con la forza, forse con interventi di polizia che è meglio anche occultare. C'è il rischio che senza questo tipo di controlli molto utili, come testimoniano gli ultimi episodi, la polizia possa commettere più violenze? Senza dubbio. Anche se con numeri in calo, la regione più colpita dai contagi resta la Lombardia, che da oggi è in zona arancione. Con la riapertura delle attività commerciali, in tanti hanno approfittato per una passeggiata tra i negozi. L'inviato. Siamo venute la mattina per evitare troppa confusione. Non vedevamo l'ora. Bisogna pure prendere un po' d'aria con i bambini. Ma tenere banco tra idem e soprattutto l'inversione di rotta sulla patrimoniale proposta da Orfini e Leu in un emendamento che, precisano ora fonti del PD, non impegna il gruppo. Contrari anche i pentastellati. Sbagliato colpire chi crea posti di lavoro, dice Di Maio. Il presidente del Piemonte Cirio definisce inaccettabile la folla di ieri in centro a Torino, in occasione della riapertura dei negozi. Chiederò al prefetto interventi rigorosissimi, ha detto. E la via del rigore sembra proprio quella che il Ministero dell'Interno starebbe per indicare ai prefetti per far rispettare le regole del nuovo DPCM atteso in settimana. Era fuggito da Aleppo, Amir El Halabi, il fotografo siriano picchiato con un manganello sferrato da un poliziotto sabato scorso a Parigi durante la marcia per la libertà. Ha il naso rotto ma sta bene. Era fuggito dalla guerra e dall'ISIS. Si è trovato in mezzo agli scontri avvenuti a margine della manifestazione, la più grande dall'inizio della crisi sanitaria. L'aggressione che ha subito Amir è l'ultima di una serie di violenze commesse dalle forze dell'ordine nelle ultime 2 settimane. Il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, fa appello al prefetto. Le immagini degli assembramenti in alcune vie del centro di Torino sono qualcosa che mi ha portato questa mattina a richiedere con forza al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Torino, un intervento forte, netto e determinato perché situazioni di questo genere non possano e non debbano più accadere. Il Ministero dell'Interno prepara una circolare rivolta proprio ai prefetti per sollecitare controlli rigorosi e il pugno di ferro. E c'è naturalmente grande attesa per i vaccini anti-Covid. La biotech americana Moderna ha chiesto l'autorizzazione all'uso negli Stati Uniti e in Europa. Possibile la produzione fino a 1 miliardo di dosi nel 2021. Ribadisce il suo ok alla cabina di regia a 3 Misiani. La priorità è spendere presto e bene, fino all'ultimo euro, i 209 miliardi del Recovery Fund. Andiamo ancora all'estero, proprio nel giorno dei funerali dello scienziato iraniano Mohsen Fakhrizadeh, ancora un duro colpo per Teheran con l'uccisione ad opera di un drone militare del generale delle guardie rivoluzionarie Musim Shaldan. Si pronuncia il Comitato Nazionale di Bioetica. Per le persone più esposte al contagio e alla trasmissione, considerata l'emergenza, non va escluso l'obbligo di vaccinarsi contro il Covid-19, secondo il Comitato Nazionale di Bioetica. L'ONU lancia un appello a raccogliere 35 miliardi di dollari di fondi per 235 milioni di persone, soprattutto nel sud del mondo, che avranno bisogno di assistenza durante il 2021, il 40% in più rispetto al 2020. Lotteria degli scontrini entrerà in vigore dal 1 gennaio, ma da oggi sarà possibile richiedere il codice necessario alla partecipazione. L'acquisto del vaccino è centralizzato e somministrato gratuitamente a tutti gli italiani. Si vede la luce in fondo al tunnel, dice il ministro della Salute Roberto Speranza, che però invita alla cautela, illustrando le linee guida della campagna per la vaccinazione anti-Covid, che almeno all'inizio non prevederà vincoli di obbligatorietà. L'Italia ha opzionato 2.573.000 dosi per poter potenzialmente vaccinare tutta la popolazione e conservare delle scorte di sicurezza. La distribuzione dei vaccini avverrà con il coinvolgimento delle forze armate. Dalle Nazioni Unite un nuovo allarme sul clima. L'anno che sta per concludersi sarà uno dei più caldi di sempre. Lavoro, scende il numero degli occupati in ottobre, meno 473.000 in un anno a causa della pandemia, calo legato soprattutto a indipendenti e precari. Fa sapere l'Istat, sale oltre il 30% il tasso di disoccupazione giovanile. 20.709 nuovi casi, il lieve aumento rispetto a ieri, a fronte di 25.000 tamponi in più, ma scende sotto il 10% l'incidenza delle nuove persone risultate positive al Covid rispetto al numero dei test effettuati, un segnale di miglioramento. Calano le vittime, 684, erano 785 il giorno prima, in totale oltre 57.000. Si alleggerisce la pressione sugli ospedali, diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva, 47 in meno di ieri, superano quota 800.000 i guariti dal virus. La Lombardia è la regione più colpita. Saranno feste con il coprifuoco. Alle 22 tutti a casa, anche la notte di Natale. E a Capodanno il blocco potrebbe durare sino alle 7 del mattino. Aboliti anche i veglioni negli alberghi. La cena agli ospiti sarà servita obbligatoriamente in camera. Dal 7 gennaio sarà di nuovo possibile anche sciare, non solo i professionisti, ma anche i semplici appassionati. 800.000 dosi di vaccino Pfizer-BioNTech sono in arrivo nel Regno Unito, primo paese occidentale ad approvare il trattamento anti-Covid. Camion refrigerati sono partiti dalla sede della Pfizer a Pours in Belgio, diretti in Gran Bretagna. Viaggiano in scatole congelate contenenti 975 dosi l'una. Una volta a destinazione il vaccino dovrà essere conservato a 70 gradi sotto lo zero. Fuori ha una resistenza di massimo 5 giorni. Distribuire le dosi su tutto il territorio rappresenta un'enorme sfida organizzativa ed è per questo che il governo britannico ha già mobilitato l'esercito. Downing Street parla di data storica e il premier Boris Johnson non esclude di vaccinarsi in diretta televisiva. Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton si vaccineranno davanti alle telecamere. I tre ex presidenti hanno accettato di presentarsi come volontari. L'obiettivo è trasmettere fiducia sulla sicurezza e l'efficacia dei vaccini quando promossi dalle autorità federali. C'è una grande tensione securizzatrice, c'è un grande consenso rispetto alle misure restrittive che sono state prese. Si accetta una vita a sovranità limitata. Oggi l'80% degli italiani, anche per le festività di Natale e Capodanno, dice di non allentare la presa o addirittura di inasprire le misure. Metà degli italiani si è ritrovata all'improvviso più povera. È uno dei dati che emerge dal rapporto Censis, che rileva anche che le persone in una situazione di maggiore insicurezza economica, con risorse per meno di un mese, sono il 17%, percentuale che è più alta nel mezzogiorno e tra i meno istruiti. Faremo a meno dei nostri amici per brindare durante queste feste. A tavola si raccomandano solo conviventi. In Russia, a Mosca, al via la vaccinazione di massa già dalle prossime ore. Il vaccino Sputnik, che la Russia ha registrato l'11 agosto, prima nazione al mondo, vanta un'efficacia del 92% e si conserva tra i 2 e gli 8 gradi. La vaccinazione per i russi sarà su base volontaria e sarà gratuita. A fine gennaio partirà la commercializzazione e una dose costerà circa 8 euro. Gli interessi in gioco sono enormi e non stupisce che siano in campo anche attività di spionaggio per rubare segreti sulla produzione dei vaccini, ma la denuncia dell'IBM ora parla di un'ondata di attacchi per colpirne la distribuzione. Criminali informatici starebbero raccogliendo informazioni su tutti gli aspetti logistici e in particolare sulla catena del freddo, un tema fondamentale questo dal momento che i vaccini devono essere conservati e trasportati a temperature bassissime. Intanto migliora la curva epidemica a livello nazionale, ma una portavoce dell'azienda americana in un'intervista al Wall Street Journal ha reso noto che entro fine anno la Pfizer potrà consegnare solo la metà dei vaccini, 50 milioni di dosi a fronte dei 100 milioni promessi a livello globale. Problemi nella logistica, il vaccino infatti va trasportato e conservato a 80 gradi sotto zero, ritardi negli ultimi studi clinici e poi sarebbe stato constatato che alcune componenti necessarie alla produzione non corrispondevano agli standard necessari. Insomma, ci sarebbero anche problemi nella qualità del vaccino, aspetto sul quale Pfizer non ha fornito altri dettagli. A preoccupare tecnici e amministratori, in cima a tutti il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, l'idea che prima del 21 dicembre, quando scatteranno i limiti agli spostamenti tra regioni introdotti dall'ultimo decreto, possa ripetersi la fuga verso il sud della scorsa primavera. Sarà un Natale di sacrifici, ma soprattutto saranno giorni di festa praticamente blindati quelli alle porte. 70.000 agenti per le strade a controllare i movimenti, annuncia il Ministero dell'Interno. Tutto comunque sarà fatto con equilibrio, assicura su Sky la ministra Lamorgese. Non ci può essere una militarizzazione della città, anche perché andrebbe in controtendenza con quelli che sono gli esercizi commerciali che noi abbiamo ritenuto di tenere aperti. Ancora un sabato di tafferugli e scontri a Parigi. Circa 500 cassar hanno messo nuovamente a ferro e fuoco la zona di Place de la République. Decine di auto sono state date alle fiamme, danneggiati negozi e vetrine. Alcuni poliziotti sono stati aggrediti con petardi sanpietrini. Adesso basta, chiamami Duplessis. Così armonico, come ha fatto? Con mia mano. Ma che diteggiatura ha usato? Non l'ho mai vista prima. Scusi, dove ha studiato? Buon Natale, nonostante tutto. Un saluto anche da qua e buone feste. Un saluto a tutti. Ciao. Anche i nostri corrispondenti. Buon Natale, buone feste anche a voi. Ci vediamo, ci sentiamo a gennaio. Mo bene Natale, non tengo denaro, ma leggo il giornale. cucca. Mamma, mamma, e dammi una mano, caro di mano, fornisci la semana e non saccio che fa, e non saccio che fa. Mo viene Natale, non tengo denaro, ma leggo il giornale e mi vaga a cucca. Mo viene Natale, ma vaga a cucca. Mo viene Natale, non tengo denaro, ma leggo il giornale e ma vaga a cucca. Mo viene Natale, ma va.